La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, buon weekend al cinema, l'ora cinematografica di Radio 24 di questo fine settimana di metà luglio, estate sempre più afosa, sempre più calda e titoli sempre meno reperibili sul mercato. Come vedremo fra poco, non è andato fortissimo nemmeno Toy Story 3 la scorsa settimana, ma forse qualcuno dice c'era la finale dei mondiali, qualcosa può avere portato via. Certo, comunque stagione non facile, il cinema cerca di rispondere con il ritorno di un grande titolo della storia dell'action movie come Predators, dell'action movie legato alla fantascienza, un remake con un attore importante, ormai molto amato, come Ben Stiller, anche se, come vedremo, il film non è senz'altro eccelso. Noi cerchiamo di metterci invece del nostro perché è in programma, in progetto, anzi ormai nella fase iniziale, un progetto appunto di un grande restauro, quello di uno dei film più amati del cinema italiano, ovvero Miracolo a Milano. Di tutto questo e di altro parleremo nella Rosa Purpurea di questa settimana. Ascoltiamo i titoli di testa. Paracadutati nella giungla di un pianeta lontano e ostile, in balia di creature mostruose e potentissime. È la trama di Predators, il ritorno della saga anni 80 con Adrian Brody nei panni che furono di Arnold Schwarzenegger. Ambizioni e delusioni nella vita di due cantanti, il maestro e il pupillo mancato. È Un microfono per due, commedia amara con Ben Stiller e Jason Schwartzman. Da assassino senza scrupoli a uomo di pace per risparmiare la propria anima alle fiamme dell'inferno. È Solomon Kane, horror adventure ispirato a un personaggio di Robert Howard, il padre di Conan il Barbaro. Torna allo splendore originale Miracolo a Milano, restauro digitale per il capolavoro di Vittorio De Sica, che sarà mostrato al pubblico milanese nel prossimo settembre. Ne parliamo con Manuel De Sica. Oh, ecco, questo allora è il menù della rosa di questa settimana. Cominciamo con il primo dei film di cui vogliamo occuparci, ovvero Un microfono per due. Titolo non fortunatissimo italiano, che ammicca molto a Una poltrona per due, a una serie di cose per due, che quindi fanno pensare subito a una commedia un po' ridanciana. Invece il titolo originale, The Mark Pease Experience, spiega meglio, come spesso accade, quello che troveremo nel film. Chi è questo Mark Pease? Mark Pease è nel film interpretato da Jason Schwartzman, è un quasi trentenne, un po', diciamo, fuori dal tempo, che vive la sua età di giovane adulto con un rimorso che affonda negli anni del liceo, quando a una recita di un musical del Mago di Oz lui sbagliò clamorosamente tutto, si dimenticò la canzone, sbagliò le parole, uscì con ignominia, non si è mai più ripreso nei 10 anni successivi, tanto che ha continuato però a inseguire il suo sogno di cantare, di fare il cantante di musical, un sogno dal quale stenta ad allontanarsi, a distaccarsi, a entrare un po' al di là della linea d'ombra. Il suo mentore, del tutto apparente, scopriremo, in quella situazione era l'insegnante di canto di quel liceo americano, ovvero il professor Gribble, interpretato proprio da Ben Stiller, che lo aveva incoraggiato, gli aveva detto, per dargli fiducia, tu sei il mio uomo fidato, quando un giorno farai un disco io te lo produrrò. Lui, appunto, il giovane Mark Pease, se l'era legata al dito, ed eccoci una decina d'anni dopo con Mark Pease che decide di fare questo disco, di realizzare questo disco. Per farlo addirittura si vende la casa, una cosa un po' eccessiva forse, e va a cercare il professor Gribble per fargli mantenere la promessa che aveva fatto. Ma il tempo è passato, il professor Gribble non è cambiato, è sempre un donnaiolo, un furbacchione, e non ha molta voglia di rispondere alle telefonate di Mark Pease e soprattutto di produrre il disco e di mantenere quella promessa. Questo è un po' l'antefatto di questo film, il motore, insomma, diciamo così, narrativo del film. Noi cerchiamo di entrare un po' nel clima ascoltando un breve trailer. Buongiorno, è l'onnipotente professor Gribble che vi parla. Io ti distruggo! Stasera è la sera della prima. Sorprendimi! Mark sognava di cantare. È ripassato Mark Pease. Non rispondo mai alle sue telefonate. Ehi! Jason Schwartzman. Ma sei impazzito! Ben Stiller. Mark, dobbiamo parlare. Lasciami stare. Sempre la stessa. Adesso basta. Un microfono per due. Al cinema. Ecco, allora avete sentito quello che viene fuori da questo tentativo di Mark Pease di inseguire il professor Gribble è una sorta di caccia all'uomo alla quale il professore si sottrae, dicevamo, e nella quale l'oggetto del desiderio, il premio in palio potremmo dire, è la giovane fidanzata di Mark Pease, anche lei una ragazza, anche lei cantante, anche lei nel liceo del professor Gribble. Ebbene, il professor Gribble ha messo le sue esperte grinfie sulla ragazzina che si sta un po' disamorando di Mark Pease proprio perché lui è un sognatore un po' fallimentare. Questo è un po' il motivo. E allora, questo è il film, questi gli ingredienti. Commedia, dicevo, sì, forse commedia agrodolce, commedia amara, un film sui disillusi, sui perdenti, su un'America di provincia che continua a inseguire un sogno che forse si è disgregato, e questo, in questo potremmo vedere anche una metafora più ampia dell'America di oggi. Però è un film che non decolla, non funziona, è un film che ha diversi momenti in cui gira vuoto, i personaggi non sono ben definiti, anche quello di Ben Stiller, non hanno mai uno scarto durante il film, sono disegnati in maniera molto flebile, quasi carta velina, molto molto inconsistenti, così come anche la regia di questo Todd Luiso, che è all'esordio appunto come regista, che butta via una storia che avrebbe potuto essere un American Beauty, forse, se fosse stata, non dico a quei livelli ovviamente, ma insomma poteva andare in quel segno se fosse stata un po' più graffiante, e butta via anche un cast di tutto rispetto: Jason Schwartzman, Ben Stiller, Anna Kendrick, la ragazzina che è anche nel cast della saga di Twilight. Insomma, operazione non riuscita, tanto che in America il film è andato malissimo, ha avuto pessime recensioni ed è uscito solo in una decina di mercati internazionali. In Italia esce a metà luglio, questo a dire che anche la Paramount che l'ha prodotto forse non ci ha creduto fino in fondo. E allora, abbandonato un microfono per due, noi facciamo solo un salto in classifica per vedere come sono andate le cose al botteghino nello scorso fine settimana. Dicevo in apertura, Toy Story va bene, prende la prima posizione ovviamente in classifica, ma non decolla più di tanto. Quasi 4 milioni di incasso nel primo, non nel primo weekend, ma nei primi 5 giorni, perché Toy Story è uscito di mercoledì, 2 milioni e 3 nel weekend, ripeto, finale del terzo posto dei mondiali sabato sera, finalissima domenica sera, qualcosa possono aver drenato, ma ci si aspettava molto di più. Sicuramente il film merita molto di più, ma è probabile che a questo punto, con il caldo che arriva, con l'estate, il mare eccetera, forse non riuscirà ad arrivare a livelli eccelsi, sicuramente non a quelli di Up per esempio, che aveva fatto 15 milioni di euro di incasso. Secondo posto con Eclipse, 12 milioni l'incasso globale del terzo episodio della saga dei vampiri, un terzo modesto posto, modestissimo posto per A-Team, che incassa, pensate, 90.000 euro nel weekend. Da lì in poi è tutta una caduta libera di film e di incassi davvero molto risicati. La rosa purpurea. Qual è l'ultima cosa che ricordi? Un lampo all'improvviso e poi sono caduto giù. Voi chi siete? Io dovevo essere giustiziato 2 giorni fa. Io ero un soldato. Sì, anch'io. Corpi speciali. Yakuza. Dobbiamo lavorare come una squadra. Ti sembra un gruppo di persone che possono lavorare insieme, questo? L'avete capito, l'avete sentito, non è una gran bella compagnia quella che si ritrova paracadutata in una giungla selvaggia, ostile, piena di animali piuttosto particolari. Ben ritrovati alla Rosa Purpura, seconda parte del nostro programma, parliamo di Predators, il ritorno con questo che è un remake non fino in fondo, perché in fondo prende gli elementi del film e della saga originale, ma qualcosa di diverso c'è. Dicevo, il ritorno però di un titolo che è stato importante, che ha fatto la storia dell'action, del fanta action, ecco, chiamiamolo così, cioè fantascienza ma in salsa d'azione, in salsa guerrigliera. Era il 1987 quando John McTiernan firmava il primo Predator con Arnold Schwarzenegger protagonista. Qui dietro le quinte c'è Robert Rodriguez nella fase di produzione, non in quella di regia, che è stata affidata a Nimrod Antal, e il volto volto principale, il capo della banda, diciamo così, è quello di Adrien Brody. Fulminanti i primi minuti del film, dove vediamo appunto Adrien Brody cadere nel vuoto dal cielo. È un lungo pensiero quello che attraversa questa caduta. Il paracadute ovviamente prima non si apre, poi sì, ed eccolo arrivare in questa giungla. Che giungla è? Dove siamo? Se lo chiede, comincia a chiederselo il personaggio di Adrien Brody, Royce, quando a un certo punto scopre altre persone come lui che arrivano giù dal cielo, proprio piovendo letteralmente dal cielo con i loro paracadute. Ebbene, molti si sfracellano al suolo, alcuni invece formano questa banda che è fatta, come avete sentito, da persone che, insomma, il migliore è meglio non trovarselo per strada. Però questo gruppo comincia a esplorare questo ostilissimo polmone verde che si scopre presto essere non appartenente al pianeta Terra. I 6-7 personaggi si raccolgono un po' per volta per strada, sono stati paracadutati su un altro pianeta per un vero e proprio esperimento. Le cose precipitano un po', precipitano di più, poi precipitare è un verbo giusto per questo film e per questa fase, quando una presenza, quella appunto di Predator, una presenza comincia a fare la sua comparsa. Sentiamo. Se riesco a sentirlo io, possono farlo loro. Sta arrivando una tempesta. Venite con me. Aspetta. Chi sei? Sono l'unico sopravvissuto. Fantastico anche questo incontro con il personaggio interpretato da Lawrence Fishburne, che appunto da una precedente missione, guarda un po', era sopravvissuto in questo ostile pianeta. Beh, a questo punto bisogna semplicemente salvarsi, andare avanti, cercare di salvare la pelle. Ovviamente si perdono i pezzi uno alla volta di questa pattuglia, rimarranno i due eroi, anzi come nel cinema classico l'eroe e l'eroina, anche se fra di loro, insomma, non smettono mai di serpeggiare forti sospetti. Puoi smetterla di sparare? Va bene. Ma dove siamo? Forse lo sa lei. E quindi avete sentito, insomma, il sospetto che lei, che poi è Alice Braga, insomma, bellissima e tostissima in questo film, sappia tutto di questa operazione e che tenga all'oscuro gli altri componenti. Un film che segue una linea anche di regia molto asciutta, senza particolari effetti aggiuntivi realizzati con la macchina da presa, tanto c'è già molto rumore e molto clamore fra sparatori e squartamenti e cose di questo tipo. Una regia che riesce solo talvolta ad appassionare, ad avvincere, a tenere attaccati al film. Il clima horror è un po' stemperato, forse un po' troppo alla ricerca di un pubblico un po' più giovane, e può essere un film che alla fine lascia un po' come quando si è entrati, insomma non è che cambi particolarmente la visione dello spettatore. Dicevo, dietro le quinte, Robert Rodriguez, che qualcuno dice grazie al cielo non si è messo alla regia di questo film, ma che spiega invece in questa dichiarazione un po' qual è stata la genesi, qual è stato il desiderio e l'idea di riportare sul grande schermo Predators. Mi sono riavvicinato al progetto di Predators nel momento in cui la Fox mi ha chiesto di scrivere un nuovo episodio della saga. Mi sarebbe piaciuto ambientare questo film ancora nella giungla, ma sapevo che non avrei potuto farlo, così l'ho ambientato su un altro pianeta. Arnold Schwarzenegger oggi è governatore della California. Così abbiamo necessariamente scritto una storia completamente nuova e diversa con il regista Nimrod Antal e i suoi sceneggiatori. Insomma, ambientazione diversa, pianeta alieno e storia davvero nuova. E questo quindi Robert Rodriguez sulla genesi del film. protagonista, dicevo, Adrien Brody, davvero una scelta molto particolare, perché Adrien Brody è passato dalle mani dei più grandi autori di cinema del mondo, da Ken Loach a Roman Polanski, con personaggi minimalisti, sofferenti, pensate a The Pianist, e lo troviamo qui invece muscolare, palestrato, cattivissimo, pieno di mitragliatrici. Allora, come mai questa scelta? Robert Rodriguez. He's a mercenary who reluctantly has to lead. Royce è un mercenario che conduce a malincuore un gruppo di guerrieri d'élite che sono stati rapiti e portati su un pianeta alieno. Adrien Brody era perfetto per questo ruolo. Non come quegli attori che rifanno gli stessi ruoli per anni e anni perdendo freschezza e interesse. Noi avevamo bisogno di scegliere un attore molto bravo, ma allo stesso tempo nuovo per il genere. Ed Adrien era interessato a farlo. Se prendi un premio Oscar nel cast, beh, non puoi che fare centro. Stuck out so much. Abbiamo parlato di Predators, questo è il film probabilmente più importante, anzi sicuramente più importante a livello commerciale di questo fine settimana. Adesso apriamo la prima finestra sul DVD Game, andiamo ad ascoltare la prima delle tre tracce di un film misterioso che dovete indovinare per vincere questa volta più di due DVD. Sentiamo. Amici cari, io non voglio morire e non morirò finché l'azienda proseguirà nello spirito con cui l'ho creata. La fortuna della nostra famiglia è costruita sulla fabbrica. Abbiamo impresso il nostro nome nella storia dell'intera nazione. L'azienda è nata ricchi e ricchi rimarrà per sempre. Allora, è un film bellissimo, a me è piaciuto molto, forse il più bel film di quest'anno per quanto riguarda il cinema italiano, penso di avervi già aiutato abbastanza. La Rosa Purpurea, @radio24.it, se avete già indovinato di che film si tratta, altrimenti fra poco ci sarà un'altra possibilità. Ed eccoci allora alla terza pellicola di cui vogliamo occuparci in questo weekend. Si intitola Solomon Kane, un altro film per palati non particolarmente raffinati, anche se ha qualche cosa nelle atmosfere che tutto sommato affascina. Anche questa volta siamo dalle parti del clima horror più che del genere horror, ma noi ci facciamo aiutare in questa descrizione dal nostro Boris Sollazzo. Buongiorno Boris. Buongiorno Franco, sei stato fin troppo gentile secondo me. Nei confronti di cosa? Di Solomon Kane? Di Solomon Kane. vabbè dai, no, noi non vogliamo raccontare i film prima ancora che ammazzare, anche perché si ammazzano da soli poi in questi fine settimana stiamo assistendo a situazioni di box office davvero inedite, anche per una stagione estiva come questa. Dicevo, Solomon Kane, qualcosa nelle atmosfere, nelle tinte più che altro, nei colori, un po' da pittura fiamminga, lascia pensare a qualcosa di interessante. Poi però mi pare che ci sia una trama un filino troppo ingessata, insomma, no? Decisamente, guarda, a proposito delle atmosfere che dicevi, all'inizio, se uno è un po' distratto, magari entra in ritardo nella sala, hai l'impressione di vedere il sequel di Van Helsing, la parte, il film, diciamo, il remake di questi ultimi anni, quello bruttino assai. E Bassett è un regista, un mestierante, davvero uno che si sforza di fare il minimo sindacale. Purfoy neanche si sforza e ha questa, diciamo, faccia ingessata da questi capelli lunghi, da due espressioni, una con la barba e una senza, ed è un fanatico dell'omicidio prima, quando da mercenario riesce con ogni tipo di arma a uccidere in ogni modo, anche i più fantasiosi, fino a che decide di redimere la sua anima, già venduta al diavolo, e non uccidere più. Succederà qualcosa però che ovviamente lo riporterà a questo, nonostante questo forse ha la possibilità comunque di redimersi e redimerà anche la sua storia familiare. Definirla trama ingessata, come dici tu, forse è persino troppo gentile, perché davvero dopo 7-8 minuti sai come andrà a finire. Ecco, allora, a proposito di questo, noi andiamo a sentire anche un po' invece quali sono i presupposti sonori di questo film in una selezione dal trailer che dà un po' il lancio alla storia. Sentiamo. Non mi sono mai sentito a mio agio come in battaglia. Ho fatto cose orribili. La mia anima è dannata. Le creature di Satana mi prenderanno se mi allontanerò dal sentiero della pace. Ho rinunciato alla violenza. Ti offro un passaggio? Non si dovrebbe andare per questa strada da soli. Solomon, il diavolo è stato qui. Eh beh, il diavolo è stato qui e il diavolo ne combinerà, come abbiamo sentito, di ogni, ma il sentiero di questo guerriero, di questo vendicatore Solomon Kane è già molto tracciato e lo spettatore mediamente lo intuisce abbastanza presto. Boris, grazie per aver stroncato, per aver raccontato Solomon Kane. Purtroppo, come abbiamo detto in apertura, non è il momento migliore dell'anno per quanto riguarda la proposta. Anche questa settimana sono solo tre praticamente i film che arrivano, quindi le nostre scelte sono obbligate. Predator, Solomon Kane, appunto. Come dici tu, è un estate grama persino per una stagione già molto debole anche in Italia. Sì, assolutamente. Poi abbiamo visto appunto che anche al box office, anche quelli che meritano, stanno facendo molta fatica. Speriamo nelle prossime uscite, ma così è più una speranza, penso, abbastanza vana, almeno fino al mese di settembre. Ne parleremo nelle prossime settimane. Grazie Boris Sollazzo. A presto. La Rosa Purpurea. Terza parte della Rosa Purpurea, usciamo dalla afosa attualità cinematografica di questo weekend non particolarmente forte o stimolante, e gli stimoli andiamo a cercarceli nel passato del grande cinema italiano. Sì, perché è notizia di questi giorni, sta per partire, anzi è già nella fase iniziale della parte, diciamo, più teorica, poi si passa nel pratico proprio sulla pellicola, il restauro di Miracolo a Milano, capolavoro assoluto di Christian De Sica, uno dei massimi capolavori di tutto il cinema italiano della storia, uno dei film italiani di quella stagione del neorealismo, anche se è un film che c'entra pochissimo col neorealismo in termini stilistici, più amati all'estero, più venerati anche dal pubblico più giovane. Ebbene, allora, Miracolo a Milano viene restaurato, un'operazione che ha un costo anche molto importante, la sponsorizzazione della SEA, la società che gestisce gli aeroporti milanesi, anche questo è un connubio piuttosto interessante e originale fra cinema e impresa. A curare il restauro, a capitanare l'impresa, c'è il figlio, anzi uno dei due figli famosi di Vittorio De Sica. Christian lo ricordiamo per le sue performance d'attore. Manuel De Sica, grande musicista del cinema, invece da molti anni si cura proprio di questo, cioè del restauro dei film di suo padre, e sarà lui appunto a curare questo restauro. Noi lo abbiamo intervistato, vi proponiamo questa intervista alternata proprio a momenti davvero straordinari di questo film bellissimo dell'inizio degli anni 50. Allora sentiamo Manuel De Sica. Chi è tutta questa gente? Poveri. E cosa fa qui? Lo so, può essere mandata via quando si vuole. Crede? Facile. Se fate i piedi scappano via tutti quanti. Non mi pare facile mandarli via. Prego signori, vogliono scaldarsi? Che vengan? Eccoci qui, tutti riuniti. Io, vedete, ho freddo come voi. E questo perché? Perché siamo tutti uguali. Sì, il mio naso sarà un po' più piccolo, un po' più grosso del vostro, ma è sempre un naso. Questa è la verità, amici. Un naso è un naso. Beh, che significa? Cosa c'entra il naso? Io ho già restaurato Miracolo a Milano in maniera tradizionale, cioè analogicamente da celluloide a celluloide, e questo è un restauro che è stato fatto 10 anni fa, ma soprattutto dopo 14 anni di restauro a partire dal 94 mi sono reso conto che i restauri tradizionali erano soggetti a degrado come i film stampati allora. Quando mi sono reso conto di questo, certamente ho finito di restaurare alcuni film, ma poi ho ricominciato da capo. 2 anni fa ho realizzato il restauro di L'Allegria di Biciclette, e oggi invece stiamo in procinto di cominciare il restauro di Miracolo a Milano, sempre in digitale, quindi cercando di assicurare, come per L'Allegria di Biciclette è già stato, un futuro più lungo, duraturo ai materiali, e questa volta quindi scansendo fotogramma per fotogramma il negativo originale su un hard disk, e poi lavorando fotogramma per fotogramma su ogni fotogramma, e riportando poi reversibilmente l'hard disk su pellicole di celluloide per la proiezione cinematografica. Questo restauro è stato sponsorizzato dalla società SEA, società aeroportuale di Milano Linate Malpensa, con il patrocinio del Comune di Milano. L'obiettivo di questo restauro qual è? Una nuova diciamo uscita, per esempio, una fruizione diversa in un video, o si tornerà anche sul grande schermo in sala? Ma vede, io le dico la verità, di base noi facciamo questi restauri perché per poterli rivedere su grande schermo. In Italia non mi sembra che ci sia molta volontà di riportare questi film trascorsi, a parte quelli di mio padre, di tutto il cinema italiano, su grande schermo in nessuna sala. Sì, ci sono sempre le sale addette delle cineteche dove poter vedere questi film, ma grandi circuiti anche in questo tempo di crisi, nessuno ci pensa a attualizzare il passato. Eppure, dicevo, è un film che lo meriterebbe molto, perché è un film che ancora oggi ha dei criteri di modernità. Ecco, proprio di questo volevo parlare. È un film che arriva in un pieno periodo neorealista, nella stessa cinematografia di suo padre, è preceduto da film come Ladri di biciclette e Chouchat. Sì, dopo il trionfo di Ladri di biciclette, Zavattini, molto intelligentemente, e mio padre anche lui, non volevano ripetersi con un film decisamente drammatico, tragico. E allora hanno voluto tentare la strada della satira e del racconto surreale, l'allegoria, però certamente non meno feroce come grinta degli altri film. Assolutamente, è un film che porta il neorealismo nel surreale, potremmo dire, sì, no? Sì, sì, infatti è stato definito da qualche francese il reale inimmaginario, sì. La cosa non fu per niente capita dai critici italiani, la videro solo come una cosa pazzesca, non capirono, non entrarono nel gioco zavattiniano, non capirono qual era la sua cifra, voglio dire. Poi per fortuna, come sempre è stato per questi film neorealisti o pseudo-neorealisti, sono andati all'estero e anche Miracolo a Milano andò al Festival di Cannes, vinse il palmarès ex aequo con un Fröken Julie di Sjöberg, un regista svedese. Io ho visto una fotografia in Francia con una fila che non finiva più su Champs-Élysées che voleva entrare al cinema. Che sguardo, che fronte! Lei chissà cosa rientrerà nella vita, con quel sorriso, con quella fronte, non finisci qui, no, chissà dove finirà lei, con quello sguardo, rientrerà una grande persona, lei non finisce qui, chissà chi era suo padre, Centolini. Avanti un altro! Facciamo un passo indietro, cioè all'idea, appunto, lei diceva suo padre non voleva ripetersi e fece questo, pensò a questo film con Zavattini. Perché Milano? Ecco, perché questo miracolo, questo momento di grande surrealismo, questa rinascita dei più poveri? In qualche modo Milano rispecchiava bene il recupero industriale, il recupero finanziario dell'Italia come città emblema, dove era più possibile dare un segno di congiunzione, di disgiunzione tra ricchi e poveri. Questo divario molto forte, sembrava proprio che Milano fosse la città più adatta, anche alla pubblicità per esempio, era Milano la città della pubblicità, anche perché il libro che c'è a monte di questo film non parlava di un fantastico così mondo, città, villaggio di Bamba. Poi l'hanno trasferito a Milano. Che rapporto aveva suo padre con la città di Milano? Buono, molto buono. Era stato molte volte alla Scala, ha girato anche delle cose a Milano, lavorando negli stabilimenti a Milano. Era sempre ospite del Grand Hotel di Milano, insieme all'amico Stoppa, che andava lì a recitare. Era stato lì a recitare con la prima moglie, Giuditta Rissone. Aveva conosciuto Zavattini nel 1932 a Milano. E lui lì l'ha incontrato ben due volte, la seconda volta gli comprò un soggetto che era destinato a Mario Camerini e quindi ha avuto una bella frequentazione, anche se lui era praticamente un romano ciociaro con parenti nel Salernitano, però un po' della sua germanicità, perché lui diceva sempre che avrebbe dovuto avere qualche avo tra i tedeschi, lo rimandava invece al nord, sicuramente alla funzionalità e efficienza di Milano. Grazie tante. Ma prego. Lei è stato molto gentile. Io non ho parole per ringraziarla. Che le dice, non ho capirì. E allora grazie ancora a Manuel De Sica che ci ha raccontato lo straordinario restauro di Miracolo a Milano a settembre, comunque in autunno, l'anteprima mondiale del film restaurato a Milano. Si parla del Castello Sforzesco come sede di questo evento e poi nel febbraio 2011 dovrebbe arrivare addirittura la distribuzione, appunto lo auspicava anche De Sica, nei cinema. Noi siamo alla seconda traccia misteriosa del DVD Game di oggi. E tu cosa ci fai qui? Bitta, sai chi quello? È il cuoco, quello che ho già battuto Edo. Dai, non stanno a fare diverso. Mi è sembrato giusto portarti un regalo. Un regalo? Per me? Ho capito, non sei più sicura di aver vinto tu oggi. Ti sei battuto bene. Dai, vieni, entra. È una serata speciale per la mia famiglia. Preferisco di no, dai. Grazie. La Rosa Purpurea @radio24.it, se avete indovinato, più tardi un'altra possibilità. Ed eccoci adesso alla nostra vetrina sugli appuntamenti cinematografici d'oltreoceano, le anteprime dei nuovi film americani raccontate attraverso i suoni originali dei trailer. Oggi parliamo di Facebook, perché c'è un film che sta già facendo discutere molto in America, si chiama The Social Network e racconta proprio una nascita, la nascita di un sistema, di appunto un social network, un sistema con il quale oggi milioni e milioni di persone in tutti gli angoli del mondo si parlano e si frequentano virtualmente in tempo reale. Ci spiega tutto però la nostra Michela Belisario, che ovviamente è su Facebook, giusto? Sì, ciao Franco. Beh, sì, certo, sono anch'io su Facebook, ovviamente, come non potrei. Allora, il film, come dicevi tu Franco, non è documentario, ma è una pellicola che svela quasi come un thriller il retroscena della nascita di Facebook e le successive cause legali tra il 26enne Mark Zuckerberg, diventato poi il miliardario più giovane del mondo, e i suoi compagni di corso di Harvard. E, nel film si rivela molto bene il voltafaccia di Zuckerberg quando liquida e tradisce l'amico e cofondatore di Facebook, Edoardo Saverin, per far entrare in società Sean Parker, l'inventore di Napster. Il teaser trailer che sentiremo tra poco è molto particolare, al contrario dei trailer normali, diciamo così, non mostra le immagini essenziali del film, ma solo le voci dei protagonisti che si accanniscono tra loro. In questo primo passo del trailer si sentono i vari protagonisti che hanno portato alla creazione di Facebook stupirsi di fronte a questa, tra virgolette, scoperta che potrebbe farli diventare molto ricchi. Think I've come up with something. That looks good. That looks really good. It's gonna be online any second. Who should we send it to first? Just a couple of people. The question is, who are they gonna send it to? Site got 2,200 hits within 2 hours. 1,000, 22,000. Ecco, adesso sentirete invece in un crescendo di irritazione i primi litigi seri, molto grossi, tra Zuckerberg e il suo compagno e primo investitore Edoardo. Your actions could have permanently destroyed everything I've been working on. We have been working. Did you like being a joke? Do you want to go back to that? Mark! You better lawyer up, because I'm coming back for everything. E allora, abbastanza interessante questo trailer, Michaela. Ricordiamo, The Social Network uscirà negli Stati Uniti il 1 ottobre, in Italia il 12 novembre 2010, diretto da David Fincher, quindi una firma di grande prestigio per il thriller proprio. Il film vede nel cast Justin Timberlake ed Andrew Garfield, ovvero il nuovo futuro Spider-Man. Grazie, Michaela, alla prossima settimana. Ciao, Franco. La Rosa Purpurea. Ed eccoci di nuovo insieme alla Rosa Purpurea, alle nostre visioni domestiche, la quarta parte del nostro programma, come sempre dedicata ai film da vedere in casa tra TV, DVD e Blu-ray. Come sempre nella prima parte ci facciamo aiutare dagli amici del settimanale Film TV per pescare nei palinsesti in chiaro e gratuiti della prossima settimana un film che valga la pena davvero di vedere o rivedere. In questo caso abbiamo pescato una bella prima TV in chiaro in prima serata, ce la racconta Andrea Fornasiero. Ciao Franco e un saluto anche agli ascoltatori di Radio 24. Questa settimana segnaliamo il film di lunedì sera alle 21.10 su Canale 5 in prima visione, La ragazza del lago di Andrea Molaioli, che nel 2007 ottenne un inatteso successo di pubblico in quanto il film appunto era un'opera prima, andò alla settimana della critica a Venezia, per cui nemmeno in concorso, e presentava un cast comunque abbastanza famoso ma non di star. C'erano Servilli, Lagolino e Gifuni principalmente. Però un po' perché era di genere giallo e un po' perché Servillo stava iniziando a riscuotere successo, il film andò molto bene al botteghino e ottenne anche 10 David di Donatello. È tratto da un romanzo della norvegese Karin Fossum ed è ambientato però sui laghi di Fusino in Friuli. È un giallo, per cui un genere popolare, ma al tempo stesso prende un tono esistenzialista e intimista in cui tutti i personaggi hanno in qualche modo un malessere interiore. Quindi riesce a coniugare sia il registro di genere che quello d'autore, risultando un film davvero un po' per tutti i gusti. Curiosa anche la presenza in colonna sonora di Teo Teardo, che fa un grande uso di musica elettronica molto poco comune nel cinema italiano di genere degli ultimi anni. Per questa settimana è tutto, ci risentiamo la prossima. Bene, grazie ad Andrea Fornasier. Allora ricordiamo l'appuntamento: La ragazza del lago, straordinario film di qualche anno fa, uno dei più begli esordi italiani e fulminanti esordi italiani degli ultimi anni. Lunedì 19 luglio, canale 5, 21:10 in Prima TV. Siamo arrivati alla terza traccia del film misterioso di oggi. Ascoltiamo. Come stai? Buongiorno, ora è un chinotto. Sì. Grazie. Allora, per la cena. Che ne pensi? Un menù ligure? Guarda, intanto questo l'avevi lasciato nel furgone. E avete sentito per un lungo frammento una voce che recita in italiano, ma insomma evidentemente non italiana. Questo potrebbe essere un altro indizio, un film italiano che ha avuto un notevole successo di critica. Al cinema è andato in maniera un po' altalenante, ma è stato già proposto e venduto in parecchi paesi, presentato alla scorsa mostra del cinema di Venezia e chiaramente sveleremo la prossima settimana l'arcano e anche i vincitori. La Rosa Purpurea, chiocciola radio24.it è l'indirizzo se avete indovinato di che film si tratta e volete mettere le mani su uno dei DVD che ci sono stati dati appunto dalla distribuzione per i nostri ascoltatori. E allora andiamo invece indietro di qualche giorno. Una settimana fa avevamo seminato questa traccia. Chiunque fosse stato era grosso, con gli artigli, e non veniva neanche scalfito dai pallettoni. Fu così che mio padre tornò a casa, fuse i cucchiaini d'argento della dote di mia madre e forgiò delle pallottole d'argento. Si trattava di Wolfman, questo è il film con il quale abbiamo giocato la scorsa settimana, lo scorso weekend, il ritorno dell'uomo lupo con i panni di Anthony Hopkins. Hanno indovinato e vincono il Blu-ray di questo film Claudio Fabbri di Selvazzano Dentro, provincia di Padova, per quanto riguarda il game del sabato. Per la domenica invece Sebastian Calà di Vizzolo Predabissi, provincia di Milano. Facciamoci raccontare dal nostro Claudio Pofi tutti i contenuti di questa uscita in un video. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. L'edizione un video di Paramount è di tutto rispetto, notevole la qualità del DVD, ma soprattutto il Blu-ray è molto interessante. C'è solo qualche passaggio con minore precisione in secondo piano nelle sequenze più buie, molto pregiata la codifica DTS in italiano, c'è ancora più interessante la DTS inglese ad alta risoluzione. Tra l'altro per l'on video Paramount ha concepito questa Extended Director's Cut che offre, oltre alla visione cinema, anche quella estesa con 17 minuti inediti ad arricchire il racconto, tra cui ad esempio un cameo dell'attore Max von Sydow che conversa con Benicio del Toro a inizio film. Tanti gli extra, tra cui segnalo visione immagine nell'immagine con approfondimenti sulla lavorazione e due finali alternativi. E questo per quanto riguarda allora Wolfman, il nostro gioco della scorsa settimana. Invece un altro film della stagione cinematografica che si sta concludendo, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo. Chris Columbus tenta di far ripartire un'altra saga vincente come aveva fatto ai tempi con Harry Potter. Sentiamo la clip. È successo davvero? Quella cosa era reale? Una furia infiltrata nella scuola, dovevo aspettarmelo. Un attimo, una furia? Che cos'è una furia? E perché l'ha minacciata di ridurla in briciole? Che cosa voleva da te la furia? Lei mi ha accusato di aver rubato una folgore olimpica. Lo hanno trovato. Nella nostra epoca il mondo è abitato anche dalle divinità del Monte Olimpo. L'unione tra dei umani nel corso del tempo ha dato vita a una nuova razza, metà mortali e metà divini. Percy si renderà ben presto conto di non essere un giovane qualunque. Semidio, figlio di Poseidone, è ricercato dalle forze del male perché è sospettato di avere rubato il fulmine di Zeus, l'arma più potente dell'universo. Da Fox Home Entertainment arriva il DVD, ottima qualità, con tracce Dolby Digital multicanale in italiano e inglese assolutamente efficaci. Tra gli extra sono presenti scene tagliate e approfondimenti su personaggi mitologici del film, oltre a un simpatico quiz. Tra l'altro disponibile anche un'edizione doppia DVD più Blu-ray con, tra l'altro, audio italiano in DTS. E andiamo all'ultima proposta. Il clima si fa sicuramente più intimista. Il film si intitola La casa di sabbia e nebbia ed è una bella storia legata proprio al senso di appartenenza, alle radici, al proprio territorio. Sentiamo. Dal punto di vista legale lei ha ragione, ma la vera proprietaria di quella casa ora vive in un motel, signor Perani. Tutti i suoi averi sono ammucchiati in un magazzino. Ora perché dovrebbe aspettare per ritornare nella sua casa che le è stata tolta ingiustamente solo perché lei vuole ricavarci un profitto? Le cose non sono come appaiono. È una questione di necessità per me e la mia famiglia. Mi dispiace. Non ho altra scelta in questa faccenda. L'ex colonnello iraniano dell'aeronautica Berani, una volta facoltoso e potente dopo essere emigrato in America con la famiglia, ha dilapidato i risparmi per accasare la figlia. Per riprendersi economicamente mira alla speculazione edilizia acquistando a un prezzo stracciato una casa messa all'asta, perduta dalla giovane Katie per un disguido burocratico. Lo scontro tra i due giungerà a un drammatico epilogo, intenso e recitato con incredibile passione da un cast formidabile, tra cui Ben Kingsley e Jennifer Connelly. Da Mondo Home Entertainment la nuova edizione DVD di ottima qualità per l'audio, oltre alle tracce in Dolby Digital, segnalo l'ottima codifica DTS sempre in italiano, come extra molto interessante il commento di cast e regista. Ebbene, grazie allora a Claudio Poffi, appuntamento la prossima settimana con i consigli in DVD. A presto, un saluto. E chiudiamo così la nostra puntata della Rosa Purpurea. Vi ricordo l'appuntamento alla prossimo weekend. Uscirà qualche film in più, c'è una improvvisa ripresa, 6 pellicole nuove nelle sale, tra l'altro con attori importanti, perché arriva The Box, che è un thriller etico non da disprezzare, con Cameron Diaz, poi Il solista con Robert Downey Jr. Insomma, mi sembra un weekend che si apre sotto buoni auspici. I film noi come sempre li vediamo e poi ve li raccontiamo qui il sabato alle 18 e la domenica alle 15. Un saluto da Franco D'Assisi.